Ricavi dove lui non ci mette gli occhi, nascosti. Io vedrai che in qualche modo lo trovo. Se voglio io la piazza anche dove è lì, mi chiamo la scala aerea, pago quant'è, 100-200 euro, non me ne ha fatto un cazzo. Mi chiamo già la scala aerea, salgo io nel cestello e la piazzo come ti voglio. Ne cavo una, si raccudo in carrera, e piazzo l'altra, con il dubbio, gli ha piazzato dentro il dubbio e signori bulloni. Fatto. Infatti, voi va pure così, ma se ti aiuta il muratore, te la mette lui, ma perché ti puoi venire a quadri, e boh, senza che vediamo da lì. E non lo so se si possono nascondere, in facciata devi abbassare i vidi, capito cos'è il discorso? Devi trovare un modo da come mettere i fili che non si vedano. Ecco cos'è. Ehi, adesso Giuseppe viene, domani lo conosco. Questo qui, l'ho telefonato. Perché se no vado da Gigi Vulcano, che il figlio lavora dove affittano queste scale aeree. E vi lo dico. Magari mi prendono anche di meno, capito? Con l'autista ha fatto lodarmi, no, senza autista, perché non te ne danno così. Sento un rumore, sento. Rumore di che cosa? Di quell'inquilino? No, come stavi trasmettendo, c'è stato un disturbo. Ah. Aspetta un attimo, che controllo. Le stazionarie. Uno e due. Già c'è, stazionarie. Ah va, ma giù boghi, no, boghi. Perché come piove mi si riempie l'antenna e salgono a due, due e mezzo, va. Sempre quel difetto lì c'ha. Vabbè. Oh, benissimo. No, la mia già è collaudata, quindi la nebbia così faceva vento e troni e lampi, non succede nulla. Lo so, ma queste c'hanno questo difetto qua, gliel'ha fatto anche a Marco Scurchion, che ce l'aveva uguale, e dice si ribianava de babura ed. Infatti questa qui l'ho promessa a un amico, giustamente la aggiustiamo, e in modo che non entri acqua e ce la piazza in campagna. Sicuramente non c'hai il tappo sopra. No, è da dove c'è la bobina, c'è quella fare trasparente, si piena lì dentro, deve, dal gommino entra sicuramente. E allora facciamo del gommino, poi cambiato il gommino lì, che ha anello il fatto. E questa è un energy, tipo la BA27L, uguale sono, entra da anch'io sicuramente, vera. Perché come piove subito mi salgono le stazionarie. Già è così, sì. Già è così. Si è rotto l'anello, si è rotto allora. Ma basta siliconare lì e poi cazzo, vulcanizzare dov'è la bobina, e da buio puoi entrare, sareva che ti pare studiato, se non c'è vulcanizzata la bobina no. Non succede più nulla. Vabbè, dammi la piazza di antenna nuova. E se c'è la Game Master qua, pronta. Cazzo, arrivi a pigliare due misure e tutto, tutta segnata, pronta a sapere come si va. E qua, una giornata tutta, è pronta a piazzare praticamente. Siamo un bel calmo, calmo, e così ti devi rilassare. Se ho preso un palo da 4 metri, zingato, proprio da infilare dentro questo palo qui, ieri mi so candato, ha giù fatto venire uno con un camioncino barricami nero, ti so così senti, cazzo, ha giù peso di là e da poi va nulla. Ma che tu, infame di questura che mi guarda, c'è un'incazzatura che la metta a basta. No. capi a potevi da Maria, ti è andato un gli te l'ha andato in chivi, allora rompete le capri, come tu capiti, o se nada. Ma guarda che conosco anche gente lì, mi, dove stai dicendo tu, che uno che comanda proprio me. Ma un bei nasu! Tu non sta sedia la signora, è vero lì. Ma tanto lì fammi capire, cioè lui che cosa ti ha detto, perché tu perché l'hai chiamato? Cos'è che hai detto Cla, che c'è stato un disturbo? Caponato, cos'è che ti ha detto lui, perché l'hai chiamato tu? Per vedere se mi dava una mano a piazzare l'antenna nuova, che dovevo smontare questa qui che è rotta. E l'hai fatto di guarda. A Bozzi, ma ha pigliato a Bozzi che andava pure in caserma di non siamo in nostro rudaccio, ha detto. No, non lo comanda nulla, è un affitto, la facciata è la tua, quella. Non ho capito cosa che vuole. Secondo me tu comandaeta, lo vedi che non ragiona. Che neanche il padrone di casa voleva, va domani, Andu, e contatto a Pietro, il padrone di casa, proprio a vedere se è vero. Isso devi fuggire da Zazzari, vedrai tu se lo faccio fuggire. Addirittura ti ha messo contro anche il padrone di casa. Oh, così mi ha detto lui, ma non è vero, Pietro manco ne sa di queste cose, io lo conosco a Pietro, conosce a mia moglie. Per carità, guarda, lì Natali, devi cercare di risolvere la situazione, sennò come fai a montare con l'antenna? Non ci sono altre soluzioni lì. Adesso vediamo cosa mi dice quel muratore che ha le chiavi di quello del terzo piano, quello che ha aggiustato il tetto, adesso già me lo fa, gli devo far vedere chi su un coso, chi su un gabbiotto dove c'è una specie di lucernaio e me la faccio piazzare lì sopra, secondo come va. Porca miseria, sei uscito pure di gabbola. Per carità, ancora non ha capito dove fare da bravo, deve stare in silenzio e su che andiamo. Sì, adesso vediamo come si piazza. Quello è per fare del bene alla gente, l'ho salvato due volte, una volta pure da essere arrestato, perché questo qui ha minacciato di morte a mia moglie, figurati. Sì, ma poi per appunto stare tranquillo e sereno, perché lui già lo sa che cos'è, quindi non è che può minacciare niente, capito? Mi raccomando, Natali, già mai capito, già mai capito, metti quello là e già lo usai, se bucate tutto. Sì. Se no, te lo sai che qua la porta è aperta, e regali tutte le noghi, quando è tutto un gaimo, bene te la bigli. Se calmo non ti accettare, se sennò da bui sono uguali. Vai, si risendi. Buonasera, amico. Buonasera, ho detto. Cioè, Natalino è anche troppo tranquillo, ho capito. Allora fogli attenta che sia voi bei risaffi, capito? Risaffi a voi, Natalino non attacca a muro, l'attacca Edo a capo. È fuori di testa. Cioè un giorno dice una cosa, un giorno dice un'altra, pigli a bordi da ieri, e c'ero io l'ultima volta, e io mi piazza là, stavo dicendo una mano, io sono binocchi, qui e là, cazzo da voi, ti domandano una cosa e pigli a bordi da ieri, ma sei fuori di testa. Franco, vedi qualche cosa tu. No, io ogni tanto mi allontano, c'è roba al forno e quindi ogni tanto mi allontano, continuate voi, già sono qua, io non c'è problema, vai dopo. Via. E cosa vuoi fare? Siamo così, pezzo di vicino. Natali, non ti rabbia. È venuta mia moglie. Mi sa che c'è tipo qualche guardia, uno sospetto. Dove? Sta controllando quel cellulare. Dove? Qui c'è un'altra pagina. Allora, che si dice? Dove si dice? Non andare vero e passato, sì? Insomma, dai. Diciamo che non mi posso lamentare. Tutto a cappa, tutto a posto. E tu? Io tutto bene. Tutto a posto. mi prendi? Aveva debitato colpo d'aria. Puramente. Sai come te. Are invece di se non mangiano, ma regalo cane. Era lui. Che da imperia, può poteva. E arrivederci. Allora preparendo, dice il dottore. Guarda che forse li fanno a ottobre gli esami. O maggio ottobre. Sì, me devo prendere le pastiglie per memoria. Ma che non riesco a tenere nulla in memoria. Ma come mai? Boh, non lo so. Forse l'età. Forse l'età è per quello, sto raggiungendo i 70. Io me la pigliava, che se no da poi ci metto i coglioni non la metto più nulla. Chi c'è che ti vendi? E chi c'è che ti vendi? Appunto. Ti conviene adesso al prossimo anno, perché se no poi se perdo la memoria pure io è un casino. Va bene, Natalino. Vabbè dai, Natalino sicuramente sto facendo cosa. E così poi ci. Purtroppo ci sono anche questi problemi qua. E uia. Un casino, Qua non c'è libertà di casa sua, uno cazzo, almeno fa quello che vuole. Con questi condomini è sempre in guerra, sì, non c'è niente da fare. Dittimo già fa, figlia! Un fumogene con il tiro dentro. Ma vedete che la casa si incendia. Purtroppo però. Se gli metti le mani addosso poi passi casini, ti denuncia pure, cazzo, ed è un problema. Fate così. Purtroppo non c'è niente da fare a queste persone qua. Purtroppo è così. Io mica faccio. Ci salgo io, se ci devo salire, ci devo salire solo d'estate. Ma qui ho fatto più potenza attraente. E boh, per controllare. Vicino a campagna è entrato questo ragazzo, uno di chi si extracomunitari, a rubare, l'ha trovato il proprietario dentro, l'ha colto una giuscia, ma la giuscia l'ha fatto, guarda, non ti dico come l'ha ridotto, l'hanno portato all'ospedale, beh l'ha denunciato e sta passando casini a questo, 6 mesi di condizionale gli hanno dato. Figlia, non devi toccarlo, devi chiamare la polizia, tu devi soltanto fermarlo, rimanere lì, a far venire subito la polizia e poi ci pensano loro. Tu non devi toccarlo, ma nulla. Entri o entri o devi rimanere. Non lo so, ma se ti metti dentro il tuo caso, è proprietà privata, con la micchiura cosa vai? No, dimmi cosa vai. Se stai fermo ti fai ammazzare allora, scusa. Oh, se fa la micchiura allora senti di mandarlo via e denunciarlo. Mandarlo via? E il ladro pensi che tu se ne vada via con un'arma in mano, quello ti spara, mica se ne va via. Sì, non è così, no. E io ti dico, anche se lui è armato, io sono da sopra da me cognato, sono entrati tutti e due, da ne va per tempo arrivi alla casa che si è formato un cane in nato, a tutti e due. Anche della pigliata mossa a culo, all'altro faccio mai trattare a bibi. Dice, non c'ero, mi cognata ha detto io non c'ero. Sono entrati loro e sono arrivati a metà casa. Quindi cosa volete da me? Penso per loro che sono entrati. Lo so, però è sempre un problema, ho capito. Bisogna evitare certe cose, se si possono evitare, altrimenti. Sito fuori, attento al cane. Quindi, tu fai cosa sei entrato? Tito ha chiamato subito la polizia, che l'inquilino vicino. Ha chiamato la polizia subito che ha giù un cane. Mi ha segnato un pezzo di. Di guru. Un pezzo di guscia. Allora, mi ha mangiato un pezzo di. Sopra di piedi della mano. E lo so, però poi ti fanno pagare anche i danni, capito il problema dove sta? È quello. Oh, ci ho scritto tanto fuori di attenti al cano, non gli hanno fatto nulla a mio cognato. Erano le pistole, le pistole dentro sono rimaste. Ma cognato non vera. Quindi, quando sono giunti, hanno chiamato a mio cognato, ha aperto il cancello, sono entrati dentro e c'erano le pistole per terra. E Rugani era abusato. Vabbè, se così già va bene allora. Era mio cognato, no? ma poi io sono là, ne batto nulla. Faccio per loro che sono, la polizia gli dico, faccio per loro che sono entrati. Uno senza un pezzo di natica ne ha tracciato. Era rimasto in terra, era un bersaglio. All'altro ne ha tagliato una bimbi, mi ha tirato. E peggio mai, gli ho fuggiti, ha già stato il cancello, ma come su rane. Lo so, però... è sempre un però, sempre un problema, capito? Io quello che dico è bisogna cercare di evitare, provare a parlargli magari con la calma e si risolve il problema. Quello che gli ho detto io, ti fa vita con la calma, se non la comprendi, ti verrà su una paifuta, se no c'è un marmadrone di ragazza. Io, e oggi ti attacchi tu. Se togliamo un inquilino, a chi è da solo inquilino, io sono un proprietario, quindi tu vuoi sì, allora vedi a piazza. E infatti, quello dico io è, vabbè, c'è quello, allora il padrone di casa deve dargli l'autorizzazione di fare quello che deve fare, che poi non è sul tetto, capito, fosse stata sul tetto. Sarebbe stato un altro discorso, ma ce l'ha in facciata, capito? Quindi a me tu non mi puoi proibire di piazzare un'antenna in facciata. Perché sei in casa tua e sei proprietario anche della facciata. Tu non mi puoi dire nulla a casa mia, anche io sì a casa mia. Vale, non c'è già me. Ma infatti è quello che dico io, capito? Quello dico io è così. Io ci avevo una cosa, scusa un attimo, sto controllando se c'è stazionario qua. Allora, qua siamo a posto. Stazionaria non ne abbiamo. Riprendi tu, riprendi. Sì. Mi c'è per animare da ora a fare i belli. E pigliati qualcosa, latte e miele magari, limone, ti passa, capito? Sì, così è da bene ci accusi. No, stavolta mi torno a prendere la pastiglia. Che ne ci accusi? Io quando sono a mal di gola lo prendo sempre e non mi dà nessun problema, capito? Poi stavolta mi prendo un'altra piccapirina e poi vediamo cosa annisci se mi va giù da inizio a dire del raffreddore se questo cane blocca a miro buro. Allora dimmi una cosa, ma il segnale è sempre uguale? Sì, sempre uguale. Ma perché stavo, ho commutato con l'altra antenna, volevo sapere se ha cambiato, niente, no? No, sempre il mattese il segnale. 9 9 più ti do perché tu di più non me ne dai. Ho sistemato un'antenna, ce l'avevo qua e l'ho poggiata, dai, appena appena diciamo fuori dalla finestra e ho commutato per come sta, però la di stazionaria non è, quindi quella è molto importante. Vabbè che è colicata, quindi non c'ha la stessa resa di quella che c'è su, la verticale che è piazzata sopra. Vabbè, giusto, la stavo provando per come stava andando, tutto lì. Sì, il tuo segnale è sempre 5,9 più 20, 4, la radio è sempre buona, comunque non ci sono problemi. Che antenna è fa? È quell'antenna che ho sistemato, ti stavo dicendo qua. Però adesso l'ho poggiata praticamente nell'altra stanza dove c'avevo prima la stazione, ti ricordi? L'ho coricata lì, ma l'ho provata a vedere se stava andando, se c'era stazionaria. Stazionaria ho visto che non ne ha, però è coricata, capito? Quindi non è che c'ha quella grande resa. Sì, vabbè, non c'entra niente, anche se non ha stazionaria, ti ricordi anche a Gianni, stazione non aveva, però l'antenna non radiava. Andiamo a vedere. Possiamo metterla dritta, provare, fare le prove, diciamo, a fare, capito? Perché era aspettata, claro. Praticamente lo tiro centrale, non l'ultimo, il penultimo, era spezzato, capito? Quindi come ha spezzato, aveva lesionato appena il capo, capito? Gliel'ho sistemato, gliel'ho tutto vulgarizzato, tutto bene. Non irradiava perché era spezzata in due, praticamente c'aveva lo stilo centrale in terra. Sì, ho capito, ma all'interno magari il capo era interrotto, capito? Non lo conosco, vabbè, quello lì fare pure troppo e poi vedere un po' come la situazione. KK. Avanti, Vittorio. Sì, fate così. Sistemare e guardare. E un burro, sempre gli da piccata da sopra, è la più controllata. Beh. Ma io ho sempre questa. Ho visto che va bene questa che ho, questa giustà, attendi, parenti, parenti, attendi. Ma beh, non va per va bene, antenna accetta, ma oggi sta semplicemente. Lascia perdere, io ci do tutte e due, c'ho la mantova, la Smart Tech, adesso poi vabbè dovrò montare la 5 bande. Ancora ne ho la voglia da fare, ma piano piano queste scarpe non faccio nulla. Da un tempo brutto, non devo stare a prendere freddo. Col caldo quest'estate. Mettiamo a posto un po' il parco antenna e poi ho finito. Non me ne frega niente. Avanti tu. Aspetta un attimo. Ehi. Bene, sto uscendo. Non bene, no, di più. Santiago Nova, Radio Super 5. E sono col Superstar e col microfono normale. Una canonata si scende. No, beh, no, di più. Vai, fra. 59 più 25, sì, Natali, la radio è ottima e buona. Cicla, in definitiva, io non ci voglio salire adesso, voglio salire quando ho la patente, così mi faccio quello che devo fare e piatto le antenne che mi servono, ho capito? È inutile stare, sali, scendi, sali, scendi. Sì, ma infatti, io già di sala che fare. Lavoro una volta e basta, io non ho voglia, non ho giusto a fare le antenne, ce le ho tutte. C'ho già anche la 5 bande, c'ho tutto, però non è pure. A tempo bello mi metto e faccio qualche lavoretto in più, adesso lascio tutto così com'è. Avanti Tom, lo senti bene Natalino, sì? Sì, a voglia, 9 più 5, lo sento. A radio perfetta, è il segnale perfetto. Ok, altro di più voi. No. Guarda, ho sistemato quella cosa là, quell'amplificatore. Oh, ma già va bene, ti ho sentito, c'è un bel segnale. Adesso aspetto, guarda. Adesso l'ho attaccato. Com'è il segnale? Aspetta, Guarda adesso. Sì, a 9:10 si è passato a 9:20. E sono in seconda posizione. Va bene, un bel forte. Ciao, aspetta, ci arrivano bollette dall'altro mondo. Ma infatti, ce li hanno già. Questo per fare qualche prova. E buh. Avanti, Natalia. Sì, vi ascolto, sto mangiando. Va bene, anda bene, vai do. Infatti. Ma io non ho bisogno di buoni amplificatori e buoni nulla. Ma ti esci? Che fa? Oh, comunque l'antenna io ce l'ho dall'80 ai 6 metri. Dall'80? Da 80, 40 e altro, fino a 6 metri. Ma quale? Quella verticale che c'hai? Ma la mia è arrivata a metà marzo, mi è arrivata. E ce l'ho giù in magazzino. La volevo piazzare quest'anno, ma ho detto, ma mi sono buttuffato. E ce l'ho giù in magazzino, ce l'ho. No, la mia è 5 bande, 10, 15, 20, 40 e 80 verticali, però anch'io non ho montato niente. 6 metri c'ho una direttiva grande, ma non è piatta, l'ho regalata a Roberto. Questa è una verticale che fa dagli 80 fino arriva fino ai 6 metri arriva. Dagli 80, no, questa fa 10, 15, 20, 40 e 80 metri. Noi 6 metri non li fa, ma non mi interessa. Non mi ha fatto nulla, è 5 bande, verticale della PKW, è quasi 9 metri ascia, però non l'ho ancora piazzata, c'ha 3 radiali solo, la bobina, no? Bella antenna, bella robusta, però ancora non l'ho piazzata perché no, non è giugana, questa cazzo la piazzo, non me ne frega niente. Infatti, avanti, non viene tocca nulla, al caldo conviene, questa è 8 metri e qualcosa, è alta. mettere qualcosa, ma in genere poi al prossimo anno, se riesco a passare io pure, sempre che con la memoria, con i bastigli della memoria, se ve riesco, se no rimane tutto così. E vabbè, tu provaci tu. Provaci, piano piano già si riesce a fare qualcosa. Sì, come la mia, 8,50 m, 8,70 m, quasi 9 m, dai, più o meno sono tutte così, quelle verticali, vanno molto bene. La mia è della PKW, ma non so che marca è, ma comunque le antenne sono tutte buone. Già va bene. No, no, direttiva non la metto più qua, anche perché poi mi porta via parte del giardino, mi voglio avere le mie cose, no, giusto, fatte le antenne, quelle non danno fastidio da una parte, già va bene così. Va bene, le prendi fra, io mi assento 5 minuti, già torno subito, sono qua. Ok, da questa sì, in definitiva prendo un po' di spazio con le antenne lì. Oh vabbè, se c'è lo spazio, già è bello, davvero. Sito, diciamo dai, io sono in preparazione, ogni sera mi faccio un po' di coso, di studio qua, tanto mi sta andando più bene le avvennette. Ma senza esagerare, mi giusto una mezz'oretta ogni sera faccio, un'oretta, capito? Te l'ho detto, io sto ripassando, sì, però quello che ripasso mi rimane un po' che nuda in memoria, ecco cosa è. Già che mi ponga un hard disk esterno a Darito, ma fa mentale. Ma guarda che ci sono mille fastidie per la memoria. Adesso giovedì vado e quando vado a prendere le altre pastiglie glielo chiedo, le posso dare una cappola. Perché già ci sono, non è che non ci sono. Sì. Ora. La radio è sempre buona, e tu? Ma è aumentata, di amplificazione è aumentata. Meglio va così, o l'abbasso com'era? Ma a me non dà il fastidio. Se sei qui abbasso il volume, andiamo bene. Allora, così l'ho abbassata appena, Perché poi c'è un aumento, magari diciamo che va a strappare. Ma la lascio così. È già tarato questo microfono, ho capito. Quindi, ora è MB+4 è questo. Yeah. Oh, cosa? Ho trovato un amico che si sta vendendo la radio l'8007 nella Yaesu. Così mi ha detto. Ah, non me la metto che... allora, nella Yaesu. Me l'ha fatto vedere. Ed è nuovo. Sono i 900 euro. Anche io ho trovato un 140 in vendita, 300 euro. Che sono una ora, sono lì. Oh, io me lo so continenti, calmo, vedo, funziona quando deve funzionare. Infatti non conviene venderlo. Vabbè, io adesso sto usando un coso, una alla 48, 5 watt modulati, seno di più. E già va bene, dai. Ogni tanto lo devo accendere perché altrimenti si rovina questa radio qua, capito? No, io quando qua non sto facendo nulla, ce l'ho acceso la mattina e ascolto. Faccio ascolto solo il buco. Le bonghe, i kiwi, mi rilasso. Se no, mi piglio la bicicletta e mi stesso a pedalare. Guarda che la sto vendendo una bella bicicletta, se ti interessa. Ah, la vera la mountain bike, nuova. E mi sto usando quella sullo sterrato. Io ho una bici da corsa, una bottiglia. E tu comincia? Da secolo scorso, Nel 1997, tutta in alluminio, tutto campagnolo. Ti grido. Solo devi buttare un museo. A gran museo, la sai quanta c'era uno che sotto casa che la voleva, ma la voleva gratis. La stavo dando 500 euro, ma tu mi ti posso dare 300 euro, se no non te ne do per 300 euro. È una bicicletta che avevo preso all'asta giù a coso, a... alla destra Tron, quando mettevano le aste, l'avevo portata via per 200 euro alla bici, era in partenza 1000 euro, poi è sceso 800, dopo è sceso ancora di più e poi mi ha detto la roletta, la tipa, guarda, se me la dai per 200 euro, mi ha detto passa domani te la porti via, sono passato l'indomani e me l'ho ritirata, 200 euro. Quello si vale 1000 euro si vale, no 500, 1000 euro si vale. Se lo porti al museo delle biciclette ti danno 1000 euro. Tu la devi vedere quella bici. C'ha addirittura il manubrio tutto ricamato, bello con le corone, cazzo, ma proprio bello, tutto in alluminio, non c'è niente di ferro, tutto in lega, lega leggera, tutto campagnolo, anche il cambio, moltiplica, tutto. Io la conosco, sì, io la conosco. E quelle lì sono di quelle che usano per mettere ormai al museo. Ecco cosa è, si fa 1000 euro, si fa, già c'è qualcuno che sta mettendo un negozio di coso, tipo museo, si rabbaga volentieri 1000 euro. Ma qual è fra quella che c'è nel poggiolo? E quella che ti ho fatto vedere, quella bottiglia, 200 euro all'atta l'avevo presa. Quella va un sacco di soldi, più 200 euro. Di chi se ne intende le biciclette è Claudio Di Muros, se chiedi a lui, ti dice quanto vale, ce la devi vendere. Se gli interessa, gliela posso anche dare. È la bottega del 1997, pensa tu quanti anni, c'è addirittura, quella bicicletta ha vinto più di 30 gare. Vabbè, io non me ne intendo, però ti ripeto, già... sono belle cose a averle, belle cose. Cambiato radio, sto andando col 430, adesso prima stavo andando col 140, com'è? Una bomba, cla. 923, 925, sì, a picchi positivi. Ultima radio di Lucio alla Grande, sì sì, io qua ripeto l'ho usata un paio di volte e poi l'ho mollata perché mi ha fatto uno scherzo, proprio nel coso, sotto, gatta, allucinante. Aia, così è, vabbè, a volte abbiamo le cose, no, non le sappiamo anche sfruttare, oggi come va? Andave, direttore, andare tutto bene, tutto. Ma ti grido, anche a me se c'è freddo, ogni tanto uscisco in bicicletta, tra mountain bike, e mi porto lo sterrato sempre. In carriera mi vedo un po' che nuda. Infatti, cosa vuoi fare? Già va bene. No, io non sono appassionato di bicicletta, la verità, però già mi piace averla, dai, non c'è problema. Sono che abitando in campagna, esci in bicicletta, me ne messa. C'è un pezzo di strada qua, di Serra Secca, che è molto pericoloso. Bisogna stare con gli occhi aperti. Avanti, fra le prendi. Adesso mi stanno regalando uno scooterone, un amico di mio cognato, il Silver Suzuki 600, lo conosci? Certo, lo conosco, il Silver. Com'è, va in moto? Va, viaggia, 600 di cilindrata. Sì, che viaggia, fra. Tutti di moto viaggiano, pure gli scooterini viaggiano. Basta che Rugabo è nata a Rugoto, però anche se Rugabo è nata a Beri, allora è un casino. E se noi ci metti Max, d'ora. E allora, tocca a me la mano a Rugoto. No, basta. Ho già dato con le moto grosse io, adesso basta. Io la mia l'ho venduta, basta così. C'ho lo scooter quello piccolino. E quando capita a fare qualche commissione in città, uso quello. No. No, non andare, bello tutto. Ti credo, io l'ho già caduto morto, se mi sei gonfiato lo vedi, non l'ho più trattato, ma l'ho rigarata pure. E io vabbè, con Franco già l'avevo fatto di Gimbrani, però eravamo anche più giovani, adesso bisogna fare la bravi. Quindi lascia la moto in die e andrà a piedi. Io mi ricordo, guarda, appena la giù ritirata, giù vicino in un'altra rugascione della Mondezza, non chissà nulla che avevo ritirato. Appena ritirata la vepoli a Predanita, cioè, ha fatto un danno. che va forte, poi l'avevo venduta e l'avevo preso una quella la tua, ti ricordi? Poco camminato. 190, 200 vale molto. Ui ui. Vabbè, erano anche toccate, quindi ho già. È chiaro che è così. Vabbè, però ti ripeto, fra, abbiamo già l'atto, perlomeno io ho già l'atto, adesso basta. Adesso basta, riprendi tu, già sono qua comunque, ogni tanto intervengo che c'è roba al forno. Fra, ormai me l'ho già fatto io le cose in moto, quindi non ho più di... Mi adopero la macchina e buh. Ma con Claudio già ci siamo divertiti, dai. Anni indietro, io mi sono divertito un casino, lo posso dire che mi sono divertito. Ho cambiato 3 moto in giro di un anno e mezzo, non ti dico altro. Guarda, da giovane io avevo la moto da cross, un 250, c'avevo, un KTM, poi ne avevo due cinquantini, va via, da cross sempre, da competizione. E questa che c'avevo il KTM era senza d'aria, tutta la competizione. Ecco, se voleva entrare per il furgone, ci siamo a Zacchena, ad esempio, e tutti i rocchi. E anche noi girevamo un po' di tutto. Diciamo che ogni domenica la prendevamo e ci facevamo il giretto, in greffa, in moto, ti divertivi, capito, con amici. A cosa ti sono preparato? A Valghero. Sì, dai, è rientrato Natalino. Riprendi Natalino. Napoli questo coso qua. E comunque grazie per stasera, mi non c'è venuto neanche Giuseppe Efra. Io mi ci sono coricato, la verità si dica, erano gli anni 6 e mezzo, ho detto, ciao. Potete farmi uno squillo al telefono, cara. No, no, la capigli, già mi arrangio da solo. Tanto ne manco lì dove è giunto, quindi già mi arrangio da solo. Cosa fai Rasura? A Rasura te ne la fai, non te? No, non ne piazzo più antenna, adesso ne tolgo tutto, ne tolgo. Però lì sul bottone a ripidare. Sto dicendo, non risolvi niente con la prepotenza, bisogna andare a parlarli come ho detto io. Non risolvi niente, ci fai prepotenza, però te ne vai di piazzano, venuta di qua. Ehi? Giulia. Io mi sono coricato dopo pranzo perché era mal di testa forte e mi sono alzato che erano le 6:15, la verità si dica. Tutto lì, vabbè. Vai tu. Via. Io vi lascio un po', che provo a vedere se riesco a sentire a Gio Maria. Ok, ci risentiamo. Fai tranquillo, fai. Tanto sto sistemandomi alcune cosette, già sono qua, dai. Bello. C'è qualcuno su 10? Sento le 10, c'è qualcuno? Cos'è che fai a bordi? Vabbè, fra, cosa combinate? Girando la roba al forno. Cazzo, sopra la rossa è rossa. Mangiare ci mangia tutti i santi giorni. Un pezzettino di qualcosa, certo mi stavo zuzzicando, adesso sto aspettando che arrivi mia figlia e poi decidiamo cosa mangiare. Ehi, ricordati quel connettore, quell'adattatore se ce l'hai flash, perché ti dico se è maschio o femmina. Allora, la parte che esce dalla radio è a punta, per cui è maschio, l'adattatore deve essere da maschio a PL. Da maschio a PL, no, ti comprendo, aspetta che controllo a ver cosa c'è. O BNC, qualunque cosa che si trasformi, perché questa è la vitatura, c'è un attacco a vite, tipo quello dei i cavissati, cioè presente, una cosa del genere. Allora, quello che avvita, aspetta, perché altrimenti no, non ci comprendono accidenti. riesci ad attaccare l'antenna. In modo se vuoi togliere l'antenna non suo a cosa lo vuoi attaccare per dire l'antenna della macchina, ti vuoi buoni un'antenna magnetica, dai, qualunque cosa, e utilizzi l'attacco con OPL. Registrato. Hai capito? Sì, sì, ho capito, fai per me. Avanti Claudio Di Muro, avanti a te. Sì, sì, mi senta parlare, prova a andare sullo portante, voglio sentire una cosa però. Sotto c'è un residuo leggero leggero di alternata, niente di importante, però si sente. Si può trovare da qualche parte, su internet già ci sono, ma tu non hai cos'è, Boafeng o cos'è Vaxum, come si chiama quello che c'hai tu? No, oh mio, sono quelli digitali, dopo sono quelli digitali. Allora aspetta, fammi capire, allora nel perché ce l'ho l'adattatore. Fammi capire, come si chiama? Nell'antenna tu c'hai praticamente il puntale, così è? No, l'antenna è femmina, c'ha il buco che attacca al puntale della radio avvitato. Ah, la radio c'ha il puntale, la radio ha il puntale, giusto? Confermo. SMA sono mi. SMA sì, SMA femmina, io c'ho il maschio, nulla. Devi andare ad appoggiare a vedere se ce l'ha. Che c'ho anche io maschio, da maschio, SMA maschio ed esce ad HPL. Vabbè, già si trova, dai, era soltanto a livello di curiosità, se ce l'avevi in più, se no già lo cerco da altre parti, non ti preoccupare. Io ce l'ho, però al contrario del tuo l'ho preso a Fusano, quindi ce li ha Fusano quindi. Sì, c'erano gli ordini da Amazon, arrivano un paio di giorni, già non succede niente, dai, non ti preoccupare. Vediamo, prima saluto Natalino, ciao Natalino, e poi lo facciamo entrare che saluterà Claudio Di Muro. Vai Natalino. Ehi, quegli SMA sono, io adesso non lo so se detto a qualcuno, adesso vedo. SMA però che sulla radio è maschio e l'antenna è femmina. Vai Claudio Di Muro. Metalli, l'hai ascoltato a Claudio Di Muro? Negativo, lo sento basso. Già lo sai, la colpa è mia che ce l'ho appena bassa. Vabbè, pronto, non mi sentirete più perché devo togliere tutto. Cioè? E fatelo dire a Claudio. Avevo problemi. Cioè che quello di sopra voleva togliere il tubo dalla facciata. Capito? Nonostante non sia la sua la facciata che di Natalino. Che Natalino è il padrono, è in affitto. Cazzo, di tutte le maniere se ne sentono qua. Alla fine poi dice uno si compromette, ma per forza si compromette, cazzo. Sembra che ne vada ne sci luci. E tu per questo ne togli l'antenna, non esci, perché lui ti ha detto a casa tua devi togliere il palo. E come faccio? Non puoi fare diversamente. Ma scusa, non ho capito, di chi è la facciata? Se tu ce l'hai attaccata a casa tua. Sì, lui ce l'ha attaccata a casa sua, però il palo passa davanti alla finestra di quello là, capito? Quindi vogliamo vedere una cosa molto molto delicata, adesso vediamo se Natale non riesce a togliere i piedi, se no è un bel casino, se no è un bel casino, vabbè. Non può mettere niente lì, o la mette sul petto, se no lì non può mettere più niente, nulla. Ma fammi capire, Cla, che Natalino uno di due, il palo dell'antenna attraversa la finestra sua, cioè passa davanti alla finestra sua o a fianco alla finestra? A fianco passa, non passa nella finestra di quello lì, a fianco alla finestra passa. Ma disturbi quando apre la porta, le persiane, qualunque cosa? Non disturbo nulla. E allora fagli subito i biati, no, io pensavo che passasse in mezzo, che tu hai sollevato un palo e li passasse in mezzo alla finestra, li dessi disturbo, diciamo. E che cazzo ne frega allora se ce l'hai attaccata in facciata, se non è la sua? Non è la sua, no. Sarà del padrone di casa, ma non sua. Appunto, e quindi che cosa c'è? Il diritto di antenna non te lo può togliere nessuno, se sei a posto di... vabbè, concessione non esiste neanche più, in regola come utilizzo di apparati omologati e tutto, tu stai utilizzando cose omologate, potenze omologate, per cui che te frega. Dilli, mandami la lettera, se ha soldi da spendere. Ma che lettera, che questo è un rapinatorio, un infame di questura. Con quello poi non ragiona neanche, non fa. O ti azzuffi e lo fai fuggire, oppure ne togli tutto. Io per non incazzarmi ne tolgo tutto e basta, se no tocca sparargli in bocca. No, sempre diciamo, meglio discutere con le persone, cosa metto? Un coso di questura, non ho capito cosa metto. Un delinquente, mie, è un delinquente, Robè, cosa discuti con un delinquente? Se è l'arresto domiciliare cosa discuti? Ah, ho capito che lavora in questura, infatti ha detto, mi barestano che si comporta così. Natali, in certi casi è meglio evitare per non compromettersi. Tu sei una persona tranquilla e non ti vedi in galera, ma qualche padre imbecille, vabbè, lasciamo perdere, non entra in merito. Ok, facciamo riprendere a Muros, avanti a te Muros. Bianco per me, Robert. Ehi, Atla. Però sei leggermente saturo, sinceramente ieri ti ascoltavo con lo stesso segnale, però molto migliore, oggi ti sento un po' saturo, leggermente un po' cupo e leggermente in saturazione. Ok, Claudio si è allontanato un attimino, Natalino avanti a te il mic. Non sei uscito di radio, Natalino. Me ne è passata pure la voglia. Stai uscendo a tratti, guarda che forse non stai premendo il PTT. Deve essere difettoso, il microfono suo originale è questo. Ma scusa un attimino Natani, per continuare al discorso, ha avuto delle discussioni o che cosa? Ti ha visto fare certe cose e si sta stava lamentando. Cosa è successo nel frattempo? No, io l'ho telefonato per vedere se mi dava una mano a smontare l'antenna e a piazzare quella nuova, e vuole togliere anche il palo, non solo l'altro, ma ha preso a voci, me ne ha detto tutti i colori, che va pure in caserma di Nicea, mi ha detto. Fanno andare in caserma e poi vediamo un pochettino, tu evita, fai quello che devi fare e poi vedi, se appena fa qualche cosa violento, tu immediatamente chiama la polizia e i carabinieri, tu l'importante non devi arrabbiare, se deve arrabbiare lui, silenzio e basta, se fa appena lo splendido, tu chiami il corso, chiedi dovere, però senza arrabbiarti, poi se, come si chiama, sarà lui a prendersi le conseguenze, non tu, l'importante è che tu non ti giri e non fai niente, sennò dalla ragione passi al torto. Lo so. Vediamo qua se c'è qualcuno sul canale 10. Vediamo Gianfranco. Avanti Gianfranco, se ci sei batti un colpo. Gianfranco è sempre in agguato, poco fa l'ha sentito a 5.25 e in altri discorsi stava facendo qualcosa. Guarda che sul 10 c'era qualcuno. Ok, muro avanti a te, ritorna alla stazione solita dove c'è più caldo. Cos'è? Pure la pipa fumica. Questa non la sapevo. Dice sta fumando la pipa, ha ripreso, si è messa a fumare la pipa Natale, mamma mia. Aspetta, prendo il microfono un attimo, che sicuramente c'è qualcosa che non va questo microfono. Avete parlato in due comunque Natalia, scusa, facciamo riprendere un attimino a Claudio, cosa hai detto? Stai accordando Claudio? No, a parte mia stai andando alla grande, 9 più 15 sei puliti, meglio, molto meglio di prima di radio. Natalia stavi dicendo, scusa? Che sto aprendo il microfono. E perché lo faccio? È difettoso, non schiaccia bene. Le mani a forza di schiacciare troppo forte hai piegato appena le lamelle. Ho attaccato con 30 watt proprio per scaldare, questo è una valvola, non so come tu scendi, dammi un controllo di Santiago e di modulazione, questo è il SPS. Bene, sto scendo adesso. Aspetta che ha parlato anche Natalino, il segnale come prima non è cambiato niente e la voce è molto più chiara e più naturale, poco fa eri un po' saturo. Scusa, Natalino, cosa hai detto? Se sto uscendo bene adesso. Perfettamente Natalì, pulito, chiaro, limpido, recoaro. C'è il segnale un pochettino più forte di muro, se lui è 9.20 e tu sei 9.25. Ma perché, scusa Natalì, vuoi cambiare l'antenna se stai andando bene? Ti ascoltano tutti. No, sono io che non sento. Se ho comprato il palo da 4 metri da infilare in quel palo e c'ho la Game Master pronta, questa qui come mi si riempie d'acqua, subito mi salgono le stazionarie. E non va bene montare la Game Master su quel palo? E risulterebbe bassa. C'ho il palo pronto qua, me l'hanno portato ieri col camioncino. L'ho comprato 4 metri di palo, di quello zingato, da infilare lì dentro. Quello corto me lo tolgo, dove c'è attaccata l'antenna adesso, e metto quello più lungo. Almeno va in alto la Game Master, capito? Così evito anche di disturbare e tutto. Senti, cricchi, che ci sento ora solo. E sono io che stavo toccando il PTT. Sembrava stessi schiacciando nocciolino tu. Ok, un attimino in bianco, se vuole andare qualcuno, se no riprende l'amico di muro su Claudio. Dai Claudio. Sì, questo è il robotto. Dovrebbe andare qualcosa in più, questa linea che sta saldando, va molto bene, va molto bene, non lo sa che si può accordare, ma per la storia che l'ha portato, si è andato bene, perché ha preso prima quando l'ha passato, come la tratta per un'unica da rompere, perché era prestato. E come mai ti è venuta questa mania strana, cacchio? Ho detto, mi uno dei pochi ragazzi che non fuma e mi ha deluso. Ma è Natale, in festa, ogni tanto siccome capito che ti giri anche la roba che mangiamo le feste, ogni tanto la scende, ogni tanto ti tirato, perché sono anche un collezionista di quelle piste, più che altro, ma non è che fumo ogni giorno, che sto sempre fumando, capito? Ma ogni tanto la scendo, capito? Quindi per passione, ecco, ripeti. No, a me il fumo non va quella cosa, già ne prendo troppi al lavoro di fumi, è molto tossici, e guai, ma da mai, neanche da piccolino, mai, manco una tirata, niente, è una cosa che mi dà fastidio, anzi, chi vedo che fuma mi allontano, perché è una cosa, lo sento troppo. Sì, questo foglio è al miele, aromatizzato, è un pacco dolce, non è come la ricottina delle cigarette che deve fare male, ovviamente basta non aspirarlo, capisco che va più per bene, sì, ok, dai, facciamoli prendere a Natalino, sta aspettando il primo di una Natalino. È soltanto Natalino, forse si è allontanato, vediamo se è rientrato Claudio, vorrei controllo, ci sì, non c'è, oggi poca gente, dai. Ho salutato anche nelle altre bande, nelle amatoriali, nulla, ho risposto Gianfranco un attimino, ho fatto un paio di chiamate, nessuno disponibile, vabbè, pazienza. Ho detto che ho collegato, ho ricevuto quel discorso di Marcuni a 1323, te l'avevo detto Claudio? Sì, sì, qua c'è, ma non mi hai parlato, me l'avevi accennato che non ho sentito parlando nel su 10, sì, ho provato anche a sintonizzarmi con il ricevitore della Sommer, però capito che non ci sentivo nulla, non ci sentivo, capito? Capito, fatto il ricevitore della Sommer, con il coso, con quello degli 80, quello della Yaisi, il famosissimo 75, erano, diciamo, la sigla, però non sentivo niente perché avevo troppi disturbi, avevo su quelle bande, capito, quindi non sentivo nulla, poi ho visto anche su una pagina in internet che c'era questa roba, perché io seguo molto queste cose delle radio broadcast, però non ho sentito niente qui a Muro, perché c'è di notte ogni tanto c'è questo disturbo, non so se sia qualche ripetitore, qualche cosa, ma nel senso si mette una M, non mi fa sentire niente, ogni tanto passa gli orari, se lo provo tipo verso il mio di notte, quell'ora lì invece riesco a ascoltare le radio, quelle in AM, però non sentivo nulla proprio, e conta che era in AM questa comunicazione di Marconi, però non sono riuscito a sentire, a ricevere niente qua, perché ero praticamente disturbato un giorno, e di notte io ero in ascolto, capisco, sulla 160 metri, c'erano dei radioamatori parlando, stavano parlando di vaccini, di queste cose di richiamo, infatti stavano dicendo che è meglio non farli, io però non ne ho fatto neanche uno, non le voglio fare perché è una cagata roba il vaccino, anche se si è penalizzato se ne puoi entrare in tutti i locali perché sono pubblici e affollati da un sacco di persone, ma non servono a niente, stavano dicendo anche dagli amatori perché capito uno che fa 3-4 richiami, perché se stanno dicendo di quarto richiamo, anche di questa figliola Pfizer, stavano parlando e queste cose qua, capito, servono tutte queste cose. Non entriamo in merito, dai, lasciamo perdere, se no io dico la mia e vi si gioco un po' di genere, lasciamo perdere, ho toccato troppe volte questo discorso. No, tornando a noi, quella trasmissione per il momento doveva essere solo la domenica 12, mi sembra, di dicembre, era per commemorare i 120 anni della prima trasmissione transoceanica di Marconi, e hanno dato tutto il discorso proprio con la voce sua, quando ha raccontato, dice, abbiamo piazzato un'antenna di non so che cosa, sulla potenza di non so quanti kilowatt, aveva 150 kilowatt, e l'hanno riproposta questa stessa voce sua registrata, la dovevano dare a 652 kilowatt, e a 652 proprio muto, non sentivo niente, poi a 918 c'era un'altra radio sopra, si sentiva male in lontananza, lo sentivo sotto, niente, a 1323 e lo sentivo, stavamo uscendo da Padova con 1000 watt, io l'ho ascoltato quasi mezzanotte meno 10, meno male me lo sono registrato col cellulare perché hanno una cosa, non lo so quando la faranno di nuovo, forse per i 150 anni, non lo so, per quanto 120, 130, non lo so. E ho mandato la conferma di ricezione a quello che ha organizzato tutto, al direttore, non so di che cosa si chiama, di che centro ascolta, AM Radio, non so chi sia. Boh. Comunque mi ha risposto, mi ha detto contento, ti ringrazio per il rapporto di ascolto e mi manda la QSL, mi ha detto. Sì, QSL, ho provato, sapete tutte le frequenze, però non sentivo nulla, c'è un rumore tipo una motosega accesa, una cosa del genere, perché questa antenna che ho io, non so cos'è, quando si carica di QRL, lui la notte in 80, in quelle pandemie, non sento nulla, infatti a volte faccio fatica a sentire Radio Capovizia, che me l'ascolto quando non sono radioamatori, capito, allora me ne vado lì, ascolto un po' di radio broadcast, quelle cose simili, perché ci sono delle radio spagnole, che sono bomba, ma praticamente la notte proprio stavo così in turchi, perché musica, lei di ascoltare le strade casa, io con la tua stessa passione di ascoltare queste cose, però sai cosa, ti ho sentito la notte, che ne sei stato parlando con Marco Scorpio su Zoom.